Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 12 minuti, un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di telefonia, lo facciamo da un punto di vista un po' diverso rispetto al solito, parliamo dei servizi non richiesti, quelle volte che potreste per errore magari aver risposto a un SMS e poi vi siete ritrovati un abbonamento, vi siete ritrovati un costo sulla bolletta telefonica, appunto senza accorgervene, magari non voluto. Oggi cerchiamo di fare il punto su questo fenomeno, cerchiamo di capire come potersi difendere da questo genere di fenomeni che accadono a volte anche piuttosto spesso, e lo faremo con, come sempre, i nostri illustri ospiti che sono già collegati telefonicamente con noi. E allora io saluto il dottor Enrico Maria Cotugno, che è dirigente della Direzione Tutela Consumatori della GCOM, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E saluto anche il dottor Dino Cimoglia dell'Unione Nazionale Consumatori. Cimaglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima però vi racconto brevemente il quadro sui mercati, perché oggi è una giornata abbastanza particolare, intanto perché si apre il Consiglio europeo oggi 18 e 19 ottobre, in corso si svolgerà il Consiglio europeo. Sul tavolo anche temi piuttosto importanti, lo avete sentito, poco fa ha parlato la cancelliera Merkel per quel che riguarda i bilanci europei, e poi al centro dell'attenzione anche la vigilanza bancaria unica per quel che riguarda l'Europa. Velocemente sui mercati, l'Europa oggi procede abbastanza contrastata, l'apertura è stata piuttosto debole, Parigi è poco al di sotto della parità, Francoforte guadagna uno 0,4%, Londra guadagna uno 0,18%, a Piazza Affari il FTSE MIB e il FTSE All Share cedono uno 0,35% circa. Quel che si è svolto di importante oggi è l'asta dei titoli spagnoli, con varie scadenze, collocati oltre 4,5 miliardi, 4,61 per l'esattezza, con tassi in discesa su tutte le scadenze. Questo ha allentato ulteriormente la tensione, sia per quanto riguarda il differenziale tra bonus e bund, che siamo a 377 punti base, sia per quel che riguarda il nostro differenziale, quindi quello che riguarda i BTP e i bund. Siamo in questo momento intorno ai 315 punti base, e ieri, ricordiamo, la chiusura era stata a 313 punti, questa mattina l'apertura a 311 punti base. Per quel che riguarda i nostri titoli, vi ricordo che oggi si chiude la terza edizione del BTP Italia, che è un BTP quadriennale indicizzato all'inflazione. Se seguite abitualmente Salva Danaio saprete che ieri è stata ospite la dottoressa Cannata. Nei primi tre giorni sono stati raccolti oltre 10 miliardi di euro, meglio delle prime due edizioni. Per quanto riguarda l'anno in corso, non ve ne saranno di ulteriori, ma ieri la dottoressa Cannata ha detto che sicuramente nel 2013 questo tipo di titolo tornerà. Velocemente sul listino principale a Piazza Affari, perché oggi ci sono un paio di casi: Monte dei Paschi cede oltre 5 punti in questo momento, è arrivato il declassamento da parte di Moody's a livello spazzatura. Oggi soffre anche Salvatore Ferragamo, che c'è del 4,45%, in questo caso la scure che si è abbattuta è quella di Mediobanca, da outperform a neutral. Giù anche Campari, che cede oltre 3 punti, in pregilo meno 2,22%, Tenaris cede poco più di 2 punti percentuali. Il titolo migliore resta saldamente al comando ST Microelectronics, guadagna oltre 2,5 punti, grazie a una nuova commessa da parte di Samsung. ST fornirà i nuovi chip per il nuovo smartphone della Samsung. Bene anche Prismian, che guadagna 1,5 punti, Buzzi Unicem 1 punto. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,31,12 sul dollaro. Allora, lasciamo la borsa, lasciamo i mercati, addentriamoci nel nostro tema, che è appunto i servizi non richiesti sui nostri cellulari, la nostra scheda. Mi chiamo Virgola, sono un gattino, sono la stella del telefonino. dai numeri del lotto al meteo, dalle notizie di gossip all'oroscopo, senza dimenticare i loghi e le suonerie da scaricare. Sono innumerevoli i servizi a pagamento offerti via SMS ai clienti della telefonia mobile ed esistono ormai da tantissimi anni, probabilmente anche grazie a un notevole successo e a un buon numero di richieste da parte di utenti interessati ad abbonarsi. Non sempre però il funzionamento di questi servizi sul telefonino è così trasparente come sembra. Sono infatti molte le segnalazioni di utenti che si sono visti azzerato il credito telefonico in seguito alla ricezione di questi messaggi, senza averne però mai richiesto l'attivazione. Riconoscere i mittenti incriminati non è difficile. Spesso ci sono molte cifre simili, 6 o 7 al massimo, e iniziano con 48. E un vero 48 si potrebbe scatenare, probabilmente, se tutti i clienti colpiti andassero realmente a fondo della questione, facendo valere i propri diritti. Di solito però la disattivazione del servizio è semplice e immediata, e le cifre perse al momento in cui il cliente si accorge del misfatto, irrisorie, e questo può portare in molti casi a lasciar correre. A multare una di queste società nel frattempo ci ha pensato l'antitrust. Il caso è quello del concorso a premi denominato Il Vincente, attraverso cui l'utente rispondeva a una domanda inviatagli via SMS del tipo «Puoi vincere 1000 euro se rispondi ora? Chi presenta la prova del cuoco? Clerici o conti?» Rispondendo, il consumatore attivava in modo automatico un servizio in abbonamento dal costo di 1 euro a SMS, senza che venissero ulteriormente specificati contenuti e frequenza dei messaggi, e quindi il costo complessivo dell'abbonamento settimanale. La risposta al quiz? Nella maggior parte dei casi sarà stata quella giusta. La pratica commerciale, invece, senza dubbio, scorretta. E allora abbiamo voluto mettere qualche nota così di ilarità in questa nostra scheda per cercare di rendere un po' più dolce la pillola contenuta nell'argomento che trattiamo oggi, che a volte può essere davvero fastidiosa, non solo per, diciamo, per noi quando leggiamo questi SMS, ma anche per le nostre tasche, per la bolletta a fine mese. Prima di coinvolgere i nostri ospiti, ai quali chiedo ancora qualche istante di pazienza, voglio ricordarvi i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. Ovviamente raccontateci le vostre esperienze, che possono essere sempre utili anche per gli altri. Formulate le vostre domande, i vostri dubbi, sicuramente sapremo in qualche modo rispondervi. Prima però vorrei che un ascoltatore, Marcello da Milano, che ci aveva già scritto, raccontasse la sua esperienza proprio a questo proposito, perché può essere utile per tutti noi per capire meglio il tema. Buongiorno Marcello. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Raccontaci. Allora, praticamente nel mese di settembre io ricevo un messaggio da parte di questo 488184 su un servizio di erogazione dei numeri dell'otto. Nota bene, io non ho mai giocato all'otto, l'unica cosa che ho fatto forse è giocare la schedina con mio nonno nel 1998. E, praticamente a un certo punto hanno iniziato ad arrivarmi una serie di messaggi che mi offrivano gratuitamente questi numeri dell'otto. Gratuitamente no, perché alla fine io vedevo il traffico scendere in maniera molto veloce. Certo. E successivamente a chiamata Vodafone ho scoperto che è il mio operatore, non so se potevo fare il nome, che il costo di questi messaggi era di 2 euro. Sì. A volta. Però, un bel costo. Sì, esattamente, e solamente a seguito della chiamata loro mi hanno detto che bastava anche solamente aver ricevuto il messaggio senza dare riscontro allo stesso, per cui il credito, anzi il servizio veniva attivato in maniera automatica. Sì. E il credito mi veniva decurtato. Certo. Allora, intanto ringrazio Marcello per averci raccontato la sua esperienza. Io voglio subito chiamare in causa il dottor Cotugno, perché voglio capire un po' se voi come Agicom avete contezza delle dimensioni di questo fenomeno, perché in tanti si lamentano di poi ricevere questi SMS e magari rispondere per errore, per sbaglio, e ritrovarsi poi un bel costo alla fine, addirittura 2 euro nel caso di Marcello. Davvero, per ogni SMS si fa presto ad andare su quel conto? Sì, ovviamente conosciamo il fenomeno perché riceviamo insomma centinaia di segnalazioni al mese su questa tematica e le dico subito, oggi c'è una nostra equipe che sta facendo un'ispezione a un operatore di cui ovviamente non faccio il nome proprio su questa materia. Quindi il fenomeno c'è e lo stiamo affrontando su vari fronti. Già dal 2008 abbiamo imposto a tutti gli operatori che fanno questo tipo di servizi e agli operatori, quelli della telefonia mobile, un codice di autodisciplina che prevede già delle cautele molto forti. Dove forse c'è un punto debole sono proprio le connessioni WAP o su internet, perché lì in effetti non è previsto un SMS di riconferma, ma basta cliccare e poi si attiva l'abbonamento, fermo restando l'obbligo per l'operatore di mandare comunque un SMS di conferma. Quindi quello che il signor Marcello ha ricevuto probabilmente era proprio un SMS col quale gli si confermava l'attivazione del servizio in abbonamento. A quel punto il signor Marcello, che probabilmente ha pensato a qualcosa di inutile, ha cancellato il messaggio. Se avesse chiamato immediatamente la Vodafone e avesse detto: guardi, io non voglio questo servizio, sempre in virtù di un nostro provvedimento del 2007, la Vodafone avrebbe immediatamente cessato quel tipo di abbonamento. Quindi giustamente il vostro servizio l'ha ricordato, è molto facile in realtà fermare questo tipo di abbonamenti, perché l'autorità, già come dicevo nel 2007, ha stabilito che se l'utente chiama il proprio operatore, quindi Vodafone, TIM, HTG, quello che è, immediatamente il servizio deve essere sospeso, quindi a prescindere poi dal messaggio stop, ferma, eccetera, eccetera. Quindi l'importante è avere consapevolezza del fatto che c'è un abbonamento in corso e su questo, dicevo, è obbligatorio il messaggio di benvenuto con i costi e con la chiara dicitura che si tratta di un servizio in abbonamento. Quindi ancora una volta il problema è la consapevolezza da parte degli utenti dell'attivazione del servizio. E su questo il nostro recentissimo piano di numerazione del 2012 sì. Prevede un nuovo codice di autodisciplina dove ovviamente ancora di più vigileremo affinché anche questi anelli deboli della catena vengano sì, in qualche modo risolti. Certo. Allora, il dottor Cotugno parlava di consapevolezza da parte del consumatore. Dino Cimaglia, però insomma questo è un po', su questo aspetto un po' giocano questi operatori del settore, insomma, no? Per poi insinuarsi nei nostri telefonini. Purtroppo sì, purtroppo è un fenomeno largamente diffuso e non soltanto sugli SMS, anche sul web. Noi facciamo diverse denunce all'antitrust proprio su questi casi che molte volte portano a sanzioni anche significative. E il problema che intendo sottolineare su questo aspetto, entro nel merito perché è stato descritto abbastanza ampiamente, è che purtroppo la consapevolezza dei consumatori molte volte non si forma correttamente, proprio perché non c'è contezza di quello che si sta facendo, perché le informazioni sono sommarie e purtroppo si arriva a capire che effettivamente si è stipulato un contratto di abbonamento sì. Solamente quando si vedono delle somme importanti tolte dal proprio conto. Oggi le prepagate magari possono dare un polso più concreto alla situazione, perché sì. Dalle ricariche evidentemente certo. Si vede subito qual è l'importo, ma chi ha per esempio degli abbonamenti mensili dove gli importi vengono stati direttamente sul conto corrente, è difficile che si capisca immediatamente cosa è accaduto e si segnali tempestivamente all'operatore che non certo. Si intende accettare questo contratto. Tra l'altro la mia esperienza su questo caso, perché ne abbiamo gestiti diversi, denota anche una certa un atteggiamento un po' dilatorio da parte degli operatori che dopo un po' di tempo non chiudono questi contratti e non restituiscono gli importi, essendo tra l'altro coinvolti nella maggior parte dei provvedimenti come quello della Tiplast, che effettivamente vede coinvolto non soltanto la società che eroga sì. Il servizio, ma anche gli operatori telefonici. Allora, torneremo poi tra un attimo sul ruolo degli operatori telefonici. Prima però vorrei dare spazio a un'ascoltatrice che ci chiama da Bologna. Buongiorno Viviana, benvenuta. Buongiorno. Ci dica. Mi collego all'ultimo intervento, non ho capito come si chiama il dottore. Che è Dino Cimaglia, sì. Sono perfettamente d'accordo con lui. È un caso, mi è arrivata oggi la bolletta della 3, dove mi vedo addebitato un conto di 17,04 euro per un servizio di 15 giorni, e le spiego. A fine luglio io sono stata 20 giorni in Germania, mentre quindi disattivo i dati per non scaricare nulla via web. E cosa è successo? A un certo punto, per vedere dei messaggi, se mi era arrivata qualche informazione, mi arriva un'informazione da parte della 3, My TV Store, e accedi ai... non so come c'era scritto, comunque, e io ho chiuso perché non mi interessava. Quando sono tornata in Italia il 18 agosto, ho telefonato alla 3 per chiedere un'informazione su un altro servizio, sì, che si era attivato, Cashlog. Ho detto: mi scusi, ma ieri mi è successa una cosa strana, cosa sono queste cose? Ah signora, si vede che lei, andando su internet, avrà cliccato. Ho detto: io veramente sono stata fuori all'estero, sì, e non, sì, ho avuto nessun collegamento. E guardi, io l'unica cosa che posso fare, perché sono dei servizi ai quali noi non possiamo far nulla, le disattivo il collegamento. Ho detto: mi scusi, e quindi io mi trovo addebitato quanto? Era da giugno che era attivo questo servizio senza sapere nulla. E quindi questo è un furto legalizzato. Allora, le 12:33 minuti prima della pubblicità abbiamo dato spazio all'ascoltatrice, la signora Viviana da Bologna. Allora io chiedo subito a Dino Cimaglia, in quel caso lì però si restava sullo stesso operatore telefonico, però mi aggancio alla testimonianza della signora Viviana, perché poi nel frattempo sono arrivati molti sms. Ma è possibile che sia così semplice attivare questo genere di servizi? Purtroppo sì, da una parte non bisogna demonizzare queste procedure, perché di fatto ci consentono in un modo abbastanza agevole di effettuare un'operazione che di fatto potrebbe essere espletata soltanto nei negozi dell'operatore telefonico, quindi non intendo in alcun modo demonizzare questa pratica commerciale, che secondo me tra l'altro può essere anche utilissima. Il problema è che bisogna cercare di arginare alcuni operatori che utilizzano queste pratiche per fare degli indebiti profitti. Il caso dell'ascoltatrice, della signora Viviana, è sostanzialmente quello che dicevo prima io, cioè le persone non è detto che si accorgano immediatamente di quello che sta accadendo. Certo. E purtroppo in questo, per diciamo, la normativa ad oggi prevede che nel momento in cui si stipula un contratto di questo tipo in istanza, l'operatore ha un obbligo informativo, deve dare ogni informazione tale da fare in modo che il consumatore comprenda qual è il contratto che sta stipulando, quali sono gli oneri economici, quali sono gli eventuali vincoli, eventualmente se ha un rinnovo automatico. Queste informazioni, come si comprenderà bene, sono di un SMS, è quasi impossibile dare, e quindi è presupposto che non c'è consapevolezza da parte del consumatore, sì, che conferma quel determinato acquisto. Pertanto l'operatore non può discolparsi neanche nel caso in cui dica nell'SMS tutte le informazioni sono riportate sul sito, perché nessuno è in grado, oggi forse un po' di più con i smartphone, sì, certo, di poter verificare queste informazioni, insomma. Allora, io giro la stessa domanda anche al dottor Cotugno e aggiungo: ma gli operatori telefonici, quando ovviamente questi servizi vengono erogati da altri operatori, non hanno nessuna, come dire, nessun ruolo, nessuna responsabilità? Allora, parto dall'ultima domanda, sì, e poi ritorno indietro. No, certo che ce l'hanno, e anzi, come dicevo, con la recentissima provvedimento del 2012 abbiamo ancora di più enfatizzato questa corresponsabilità. Quindi gli operatori non possono più dire: guarda, non è colpa mia, io ho solo instradato il servizio, sì, ma sono responsabili anche loro di vigilare l'applicazione di quelle che sono le norme regolamentari e anche del codice di autodisciplina. E tornando al caso della signora, sì, come avevo anticipato, i problemi nascono soprattutto dalla navigazione WAP o dalla navigazione internet, perché lì non è previsto un SMS di conferma da parte dell'utente, ma basta cliccare, sì, quindi magari inavvertitamente si clicca e a quel punto il danno è fatto, certo. il danno è fatto, dovrebbe arriva l'SMS di conferma, ma come dicevo spesso viene trascurato, mentre invece quello è l'informativa che ti dice: guarda, hai un abbonamento attivo, sì. Allora il consiglio che possiamo dare è sicuramente, per chi naviga molto col cellulare, di disattivare le numerazioni di questo genere, cioè si può chiedere al proprio operatore di inibire il cosiddetto barring, di inibire il traffico verso le numerazioni di questo genere, in modo tale che si è in quantomeno protetti in via preventiva. E ancora una volta anche i genitori, questo è un suggerimento soprattutto per i genitori, se si dà un cellulare a un bambino o a un adolescente, fare questo tipo di attività. Già dal 2006 l'autorità ha imposto a tutti gli operatori di garantire agli utenti questa sorta di parental control, cioè questa possibilità per i genitori di inibire alcuni tipi di siti, alcuni tipi di traffico, in modo tale da garantire anche i minori sotto questo aspetto. Ha fatto molto bene a sottolineare questo aspetto, perché sono arrivati SMS in cui ci raccontate di vostri figli che magari giocando con un gioco scaricato sullo smartphone hanno cliccato poi un banner e questo ha fatto scattare in automatico un abbonamento, e appunto l'ascoltatrice in proposito ci ha raccontato: ha chiamato il mio gestore telefonico, lo ha disattivato, però non dovrebbe poi essere così semplice nella pratica attivare questi abbonamenti. Gianpiero da Prato, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Ecco, io volevo dire la mia esperienza. In pratica sono andato su internet per scaricare un programma che c'era scritto gratuito. Quando scarico il programma esce una finestra in cui dicono di inserire il numero di cellulare per dare un codice di attivazione, senza indicare che ci sarebbe stato nessun abbonamento. Ecco, io inserisco il mio numero di telefono, da quel momento in poi mi arriva un SMS con un codice, però mi si attiva allo stesso tempo l'abbonamento. Sì. Ma poi dopo mi arriva subito un SMS in cui mi dà anche un numero per disattivare. Io disattivo subito, però tra una cosa e l'altra mi partono 5 euro. Allora, io penso, dottor Cotugno, mi corregga se sbaglio, che questo sia un caso in cui è giusto, anzi è più che giusto, fare una segnalazione, perché mi sembra che questo è una pratica più che scorretta. Certo, non solo una segnalazione che ci serve poi per avviare attività sanzionatorie rispettive, ma poi ricordiamo anche agli utenti che quando il danno è fatto, poi per ripararvi l'autorità ha messo in piedi un sistema di risoluzione delle controversie assolutamente gratuito, che passa da una conciliazione fino ad arrivare alla decisione da parte dell'autorità o dei nostri organi regionali, che sono i Corecom. Quindi anche quando il danno è fatto, l'utente ha comunque la possibilità di non rinunciare a quei soldi, ma di far valere i propri diritti gratuitamente, senza il bisogno di un'assistenza legale. Quindi, e su questo ovviamente le associazioni dei consumatori ci danno una grossa mano. Certo. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Volevo chiedere all'esperto che avete in studio, per non incappare, chi si incappa in questo problema, no? È sufficiente cambiare il numero telefonico del cellulare? Allora, Dino Cimagli, è sufficiente in questi casi cambiare il numero di telefono? Allora, assolutamente no, perché di fatto rimarrà una posizione di dipendenza nei confronti dell'altro operatore, quindi comunque quegli importi verranno detratti da quel credito e comunque andranno persi. Certamente cambiando numero telefonico e facendo una number portability, sostanzialmente con un nuovo operatore di fatto si attiverà un nuovo contratto, però non si recupereranno certamente gli importi, quindi potrebbe accadere che si termina il contratto che si è stipulato, ma intendo con l'operatore, donating, però purtroppo non si recupera alcunché di quello che si è perso, quindi è una soluzione parziale. Quello che forse si può utilizzare come procedura è quella che scrive l'avvocato Cotugno, che è appunto la procedura di conciliazione, che ci consente comunque di da una parte chiudere il contratto e dall'altra recuperare le somme. Io, rispondendo all'ascoltatore, intendo però sottoporre un altro degli argomenti che su questo caso mi interessano molto: la proporzione delle sanzioni. Cioè, noi consideriamo che questi operatori intervengono non a caso in periodi di vacanza. Nel caso di T-Plus erano di quasi 100.000 fino a 500.000 messaggi mandati tra dicembre e gennaio 2011 e 2012, in due mesi di tempo. Rendiamoci conto che 30.000 euro di sanzioni irrogate dall'antitrust in quel caso sono da considerarsi irrisorie completamente rispetto alla mole di business che questa società ha mosso. Io credo che, e tra l'altro qui c'è anche un aggravante, perché si tratta molte volte di comportamenti recidivi. È importante, mi fa piacere la presenza dell'Agicom, con cui abbiamo un dialogo costante su queste tematiche, che si inizi a riflettere molto attentamente sugli importi delle sanzioni, perché altrimenti viene meno sia l'effetto sanzionatorio per quello di deterrenza, che porta poi alla ripetizione di questi comportamenti. Certo, ha assolutamente, su questo siamo assolutamente d'accordo. Io però, Cimalia, vorrei girarle anche un altro sms di un'ascoltatrice, sì, che potrebbe essere utile ad altri. Ricevo spesso sms da numeri brevi a cui dovrei rispondere, evidentemente che chiedono la risposta, ma io li ignoro e li cancello. È una pratica corretta? Cioè basta cancellarli senza rispondere? Assolutamente sì, è bene ignorarli. In questi casi, purtroppo, ahimè, rispetto a quello che dicevo in apertura, che comunque si tratta in genere di strumenti che consentono un commercio molto più veloce, molto più dinamico, attualmente è bene diffidare da questi sistemi, perché in molti casi si cade in vere e proprie trappole dalle quali poi è molto difficile uscire. Quindi il consiglio è, quando c'è, diciamo così, ci sono dei segnali come quello della numerazione attraverso quale inviare un messaggio di risposta, sì, è bene sempre ignorarli e cancellarli dal proprio telefonino. Tra l'altro, eventualmente si potrebbe fare una segnalazione al garante della privacy, perché resta in come questi operatori riescono a trovare il numero di telefonia mobile, tra l'altro non fisso, che eventualmente si potrebbe comunque trovare negli elenchi. Esatto, abbiamo toccato un altro tasto su cui poi magari approfondire, perché mi chiedevo stamattina, proprio affrontando il tema, chi fornisce questi numeri, e quindi mi chiedevo anche il ruolo degli operatori di telefonia, perché a questo punto è vero che oggigiorno per tanti motivi siamo portati a dare il nostro numero di cellulare, anche magari per operazioni online, però bisogna anche poi capire, e in questo chiedo anche l'aiuto del dottor Cotugno, capire come questi nostri numeri arrivino materialmente nelle mani di questo genere di operatori che forniscono questo genere di servizi. No, per quello che mi riguarda la modalità è molto semplice, nel senso che quando si stipula un contratto con un operatore telefonico, molte volte si flagga e si sottoscrive la clausola che consente all'operatore di utilizzare quella numerazione telefonica per ricevere delle comunicazioni di tipo commerciale. Sì. Il problema, perché comunque su questo piano, se fosse si svolgesse così, sostanzialmente ci sarebbe comunque un minimo di consapevolezza da parte del consumatore che il numero può essere utilizzato. Il punto è che gli operatori flaggano in automatico queste voci, chiedendoci una doppia sottoscrizione, senza farci capire che cosa stiamo sottoscrivendo. Esatto. E non solo, molte volte queste sono delle voci autoflaggate, come si dice, e quindi di fatto, se io voglio utilizzare, per scegliere quel contratto telefonico, o lo accetto con queste condizioni, altrimenti non mi consentiranno, esatto, di muovere questa diciamo seconda sottoscrizione di quella clausola. E allora, prima di appunto andare avanti con il nostro tema, volevo girare al dottor Cotugno un sms, perché è stato lei che prima ci ha raccontato di come, in un certo qual senso, sia abbastanza facile poi disattivare, ed è giusto che sia così, disattivare questo genere di servizi. Però ci ha scritto un ascoltatore dicendoci: questi attivano con un sms il servizio, il cliente poi deve chiamare o mandare una raccomandata, insomma non è poi così semplice come ce la raccontate. Lei che cosa risponde? No, non rispondo io, rispondo i fatti, certo, e la regolamentazione. Cioè, ma è giusto preciso ripeterli, così anche esatto, il signor Roberto, certo, può andare avanti. Ecco, se lo vuole andare a scaricare, la delibera 418 del 2007 prevede espressamente che in caso in cui l'utente chiami il proprio operatore, immediatamente deve essere disattivata il servizio, a prescindere poi dalla sintassi dei messaggi che poi sì, dovresti mandare. In questo caso noi abbiamo detto: no, non ce ne frega nulla dei messaggi. Mm-mm. Se l'utente ti chiama, immediatamente devi disattivare. Se ho 10 secondi, tornando all'aspetto di come questi operatori reperiscono le numerazioni, volevo segnalare semplicemente che come autorità abbiamo segnalato al governo la necessità di migliorare il sistema dell'opposizione agli elenchi pubblici, prevedendo anche questo tipo di opposizione per le numerazioni mobili. E infine, tornando alla domanda dell'ultimo radioascoltatore, chiariamo definitivamente: nel caso in cui un utente passi da un operatore all'altro, quindi anche conservando il proprio numero di telefono, automaticamente questi servizi vengono disabilitati. Renato da Vicenza, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ci buongiorno dica a voi. Sì, io ho avuto un po' lo stesso problema con altri utenti. Signor Renato, purtroppo non la sentiamo praticamente più, quindi dobbiamo abbandonarla. Vedremo se sarà possibile ricontattarla. E allora io do la linea alla signora Eleonora dalla provincia di Terni. Ben ritrovata. Pronto, buongiorno. Ci dica. Senta, io ho fatto un contratto con un operatore, cioè per una penna, per una navigazione. Sì. E mi è successo che mi è arrivato questo messaggio del concorso Fai il pieno, per cui mi dovevo mandare, rispondere a questo concorso. Dopo un po' ho disattivato il servizio. Il problema è che comunque mi stanno arrivando delle bollette in cui devo pagare, mi dicono di pagare 40 euro, 20 euro di extra soglia che io non ho fatto. Allora, il dottor Cimaglia anche ci ha in questo momento un attimo abbandonato la linea, non ci aiuta. Dottor Cotugno, allora giro a lei cosa ci ha chiesto in pratica l'ascoltatrice, perché a questo punto lei ha disattivato, però si trova ancora da pagare dei costi per servizi di cui non ha usufruito. Come deve comportarsi? Come può in questo modo difendersi da questo genere di situazione? Ecco, perfetto, così diamo un ottimo consiglio a tutti gli ascoltatori. In questi casi, quindi non utenze prepagate ma utenze post pagate, quindi dove arriva la fattura a casa, la prima cosa da fare è pagare tutto quello che non è contestato e contestare la parte relativa a questi servizi. Sì. Quindi sarebbe un errore non pagare affatto la fattura, perché sì, in quel caso allora l'operatore avrebbe l'agio di sospendere per morosità l'utenza. Sì, sì. Quindi sempre fare questa operazione, pagare la parte non contestata, e poi la parte restante si vedrà con la procedura di conciliazione e di risoluzione controversie se è dovuta o meno. Quindi sicuramente questo è un consiglio utilissimo che diamo sì, a tutti gli ascoltatori. E a quel punto poi avviare la procedura di conciliazione davanti al Corecom o davanti alle associazioni di consumatori o davanti alle camere di commercio. Noi abbiamo dato un'ampia varietà di scelta agli utenti, ricordiamo che davanti ai Corecom e davanti alle paritetiche è assolutamente gratuita. Certo. E poi Sono più che confidente che poi in sede di conciliazione l'operatore rinuncerà a quei crediti, anche perché sarà lui a dover dimostrare la legittimità degli addebiti, sì, che c'è stato l'SMS di conferma, che c'è stata la richiesta e tutto il resto. Quindi sicuramente la signora può stare tranquilla, pagare solo la parte che non contesta e poi vedrà che il problema verrà risolto successivamente. Allora, invece a Dino Cimaglia voglio girare quest'altro SMS. Ricevo ogni volta che ricarico un SMS che dice che ho dato una donazione di 1-2 euro per i bambini XY. Che cosa deve fare questo ascoltatore? Anche qui probabilmente è stato attivato qualche opzione su aderendo magari a qualche tipo di contratto, e sostanzialmente per ogni ricarica che viene effettuata una quota parte di questa viene destinata a dei fondi. Qui ci troviamo un caso un po' diverso probabilmente per lo scopo e la finalità dell'esborso. Il problema è che anche qui, se il cliente non intende più contribuire a questo tipo di finanziamento, è bene che contatti immediatamente l'operatore telefonico chiedendo la rimozione di questo applicativo, anche perché l'operatore in questo caso è l'unico che può farlo, perché in quel caso si applica una procedura tale, sì, attraverso la quale quando riceve la conferma della ricarica automaticamente una quota parte di questo importo, qualunque esso sia, viene destinato a quel fondo. Quindi l'interlocutore in questo caso sarà direttamente, come nella maggior parte dei casi, l'operatore telefonico che gestisce il mio servizio telefonico. Invece al dottor Cotugno volevo girare quest'altro SMS che trovo molto interessante. Vediamo se ci può aiutare, perché l'ascoltatrice ci chiede se negli altri stati europei gli operatori si comportano come in Italia oppure invece la normativa è un po' differente e questi servizi non arrivano con così tanta facilità all'utente, al cliente. Beh, no, la normativa comunitaria è proprio uguale. Di derivazione comunitaria. Certo. È uguale, quello che cambia sono poi le pratiche particolari, anzi vi dirò di più, spesso la normativa comunitaria è stata un ostacolo all'azione dell'autorità per frenare questo tipo di attività, perché si diceva c'era libera concorrenza, non si può impedire lo svolgimento di questo tipo di servizi, e ecco perché per lungo tempo abbiamo avuto lo stesso problema, sì, anche sulla telefonia fissa. Sì, sì, certo. Finché qualche anno fa abbiamo deciso di tagliare il problema alla radice, abbiamo fatto bloccare questo tipo di numerazioni a tutte le utenze fisse, tant'è vero che sul fisso oggi il problema è pressoché risolto. Adesso si tratta di risolvere il problema sul mobile, e posso già garantire che l'autorità è, come dire, attiva, è sul pezzo. È sul pezzo, certo. Allora, Enrico da Treviso, buongiorno, benvenuto. Le chiedo di essere molto breve perché abbiamo davvero poco tempo. Buongiorno, a me non è mai successo, ma se mi arrivasse un messaggio del tipo, prima cosa, io rispondo: non desidero servizi a pagamento, mi tutelo, primo. Sì. Secondo, secondo me i numeri li possono fare tranquillamente a caso. Terzo, ma se uno ha il RID o la bolletta, come fa ad andare in posta a dire: io invece di pagare 120 euro gliene pago 100 e i 20, certo, che non ritengo validi non li pago? Allora, Dino Cimaglia, proprio risposte brevissime, sì, perché siamo proprio in chiusura. Il caso del signore è un caso emblematico, purtroppo quello dei pagamenti con il bancario, sì, effettivamente è un problema. Consentono, esatto, il pagamento parziale delle bollette. In quel caso le strade sono due: si può fare una richiesta di pagamento parziale attraverso un bollettino, quindi l'operatore emetterà un bollettino postale con il quale si fa il pagamento parziale, oppure in quel caso, dato che il pagamento viene in automatico, quindi se non si riesce a bloccarlo prima, si effettuerà il pagamento e poi, come diceva l'avvocato Dugno, si chiede il rimborso della quota, certo, restante. Allora, vi devo interrompere perché siamo davvero in chiusura, però vi voglio lasciare con due sms, teneteli per voi, rifletteteci su, perché c'è un ascoltatore che ci dice che così non funziona, che non funziona così facilmente, ci fanno perdere molto tempo per disattivare questi servizi, e invece un altro ascoltatore che ci dice: io ho fatto come ha detto l'avvocato Cotugno e mi hanno disattivato l'utenza, e poi ci saluta. Quindi due come dire, versioni contrastanti su cui riflettere. Io ringrazio i nostri ospiti, Dino Cimaglia dell'Unione Nazionale dei Consumatori, l'avvocato Enrico Maria Cotugno, dirigente della direzione tutela consumatori della GCOM. Ringrazio in redazione Marco Lombardo, in regia Gianmarco Ferronato. A tutti voi.